in primo piano. Buongiorno, buon lunedì da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei giornali italiani. E cominciamo dal Sole 24 Ore, oltre all'articolo che trovate a pagina 6 del Sole di oggi, come avete sentito nella controcopertina di Mauro Meazza, sulle vecchie lire ancora da cambiare. Ci sono molti altri approfondimenti, perché sapete che il Sole 24 Ore del lunedì è proprio l'occasione per approfondire tanti argomenti, è meno dedicato alla cronaca e più appunto agli argomenti che si possono ci si può prendere più tempo e tabelle e numeri, che sono la nostra specialità, per spiegare. E l'apertura è sui bilanci delle regioni. Si scopre dall'articolo, dal lungo articolo, alla lunga inchiesta, potremmo chiamarla, di Gianni Trovati, che trovate alle pagine 2 e 3, che nei bilanci delle nostre regioni c'è un rosso da 33 miliardi, che è più o meno la cifra ipotizzata per la prossima manovra finanziaria, per darvi un'idea. Le verifiche della Corte dei Conti fanno emergere i disavanzi nei prossimi 30 anni, dal Piemonte alla Sicilia, la mappa dei super deficit, perché proprio in prima pagina, sotto il titolo, c'è la classifica delle prime 10 su 20 regioni italiane con il disavanzo più alto, e quello più alto in assoluto è quello del Lazio, seguito da Piemonte, Sicilia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna, Sardegna, Campania, Umbria, la Lombardia è al decimo posto. Sempre dal Sole 24 Ore del lunedì continua l'iniziativa Il Focus Estate, che è quell'iniziativa iniziata appunto il primo di agosto e che durerà per tutto il mese, due pagine di approfondimento ogni giorno per le novità per i professionisti. Oggi tutto quello che riguarda la casa e il condominio, e trovate tutto a pagina 16 e 17. Ma vi dicevo, perché proprio a pagina 2 e 3 questa mappa abbastanza inquietante di questi debiti delle nostre regioni, e lo trovate proprio alle pagine 2 e 3 con una infografica che mostra l'Italia con tutte le sue regioni, tutti gli indicatori dei disavanzi. Il commento è di Guido Gentili, tasse e spesa, 70 anni di autonomia senza rete. Al Sole 24 Ore del lunedì, come ogni lunedì, è allegato L'Esperto Risponde, che è un allegato appunto formato tabloid che, raggruppate per argomenti, fornisce le risposte a tanti dei quesiti che i lettori mandano al Sole 24 Ore. Oggi in particolare un approfondimento sulle agevolazioni, auto, tablet, spese sanitarie, tutti gli sconti per le disabilità, quindi chi appunto ha un problema di disabilità, a quali agevolazioni a diritto. E poi un altro approfondimento sulla famosa sharing economy, tra l'altro di questo si parlerà dopo anche a Ma cos'è quest'estate, per la questione del car sharing che non viene concesso a chi va verso sud. Qui appunto, sempre nella formula domanda e risposta, la condivisione e il baratto cominciano dallo smartphone. La prima pagina del Corriere della Sera, come anche altri giornali, ha un titolo dedicato a quello che Matteo Renzi ha dichiarato ieri durante un'intervista a una manifestazione fatta dal giornalista Paolo Del Debbio, che quando gli ha cercato di approfondire la posizione del Premier sul referendum costituzionale, per il quale probabilmente voteremo in novembre, non è ancora certa la data, e che appunto chiederà a noi italiani se siamo favorevoli o no alla riforma costituzionale votata dal Parlamento, vi ricorderete che all'inizio, quando la riforma era passata in Parlamento, ma era poi stato subito proposto il referendum, il Premier Renzi aveva detto: questa riforma è talmente importante, era talmente una priorità del mio governo, che lo prenderò il referendum come un referendum sul mio governo. Poi nel corso dei mesi ha cambiato idea, ha ammesso il suo errore, ha detto di aver sbagliato a personalizzare, così ha detto, il referendum, e ora l'ultimissima dichiarazione in ordine di tempo è: referendum comunque vada, si voterà nel 2018, quindi, come dire, io non andrò a casa, il governo non verrà sciolto, la legislatura andrà alla sua scadenza naturale, che è appunto il 2018. Poi una fotonotizia dedicata alle Olimpiadi. Ieri si sono chiuse nella notte, non credo che molti di noi abbiano avuto, o forse sì, la voglia di restare alzati proprio quasi tutta la notte per vedere la cerimonia di chiusura, peraltro firmata da un italiano, così come lo era stata la cerimonia di apertura. Il commento finale di Aldo Cazzullo, che è uno degli editorialisti del Corriere della Sera e che a Rio è stato per tutto il tempo delle Olimpiadi: errori e disagi, ma alla fine i giochi vincono, ed è un po' un bilancio non solo sulle 28 medaglie conquistate dall'Italia, che sono lo stesso numero conquistate ai giochi precedenti, quelli di Londra, e tanto che poi il titolo appunto di dei servizi strettamente legati alle competizioni è l'Italia Olimpica testa alta. I giochi vincono nell'opinione di Cazzullo, anche perché alla fine, nonostante tutti gli allarmi che c'erano stati, l'organizzazione ha funzionato. Rio de Janeiro e il Brasile sono riusciti a organizzare bene, con i disagi naturali che ci possono essere in eventi giganteschi come questi, i giochi appunto del 2016. Ancora buongiorno, buon lunedì da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali, siamo arrivati a quella della Repubblica, che ha come il Corriere una fotonotizia dedicata a Rio, con l'abbraccio di Zaitsev, uno dei campioni della nostra pallavolo, e l'allenatore Blengini, perché, come forse tutti saprete, la finale per le medaglie d'oro e d'argento del volley tra l'Italia e il Brasile si è conclusa appunto con la vittoria del Brasile. Il titolo principale però è dedicato al vertice che ci sarà oggi a Ventotene, in realtà è un po' al largo di Ventotene, nel senso che sull'isola Hollande, Merkel e Renzi passeranno pochissimo tempo. Il vertice si terrà in realtà su una portaerei ormeggiata appena fuori dall'isola, nelle acque intorno all'isola. Anche qui però c'è un riferimento a questa dichiarazione fatta ieri da Renzi: si voterà nel 2018 che vinca il sì o il no. L'altro elemento che aggiunge la Repubblica è un'altra frase che ha detto Renzi quando Del Debbio gli ha chiesto qual era la sua posizione sul fatto che la posizione ufficiale dell'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani, è favorevole al no, e anche se ci sono alcuni che sono favorevoli al sì, come sempre è molto complicata questa questione della presa di posizione sul referendum. E siccome Renzi è stato più volte accusato dalla sinistra Dem del suo partito, e in particolare da D'Alema, di rifiutare il dibattito, ha detto: io invito invece a una prossima festa, per esempio a una prossima festa dell'Unità, esponenti dell'ANPI per parlare davanti a tutti, senza infingimenti, delle ragioni del sì e del no. La Stampa sceglie come il Corriere di titolare su questo, cioè sul fatto che Renzi non solo ha fatto marcia indietro sulla personalizzazione, chiamiamola così, del referendum, ma proprio ha detto comunque la legislatura andrà a scadenza, cioè 2018. Quindi il titolo: Renzi si andrà al voto tra 2 anni anche se vince il no. La fotonotizia invece della Stampa non è dedicata alle Olimpiadi, ma alla strage che c'è stata in Turchia, con l'attentato che ha fatto, per ora, perché molti feriti sono gravi, 51 morti. E c'è un riferimento anche all'accusa immediata di Erdogan, che ha dato la colpa di questo attentato, che, come avete sentito, probabilmente è riconducibile a un ragazzo di età compresa tra i 12 e i 14 anni, che aveva una cintura esplosiva comandata a distanza. Però Erdogan ha detto subito: è stato l'ISIS. Il Messaggero, anche come il Corriere, come la Stampa, titola sulle dichiarazioni di Renzi: comunque vada, voto nel 2018. È proprio un virgolettato. La fotonotizia però è la squadra di pallavolo che tutti con al collo la medaglia d'argento ricevuta dopo la premiazione. Il sogno Italvolley si ferma all'argento, però c'è anche un accenno al fatto che ieri è arrivata una di quelle medaglie un po' a sorpresa, dalla lotta altro bronzo per gli azzurri. Il riferimento è a Frank Chamisso, che anche per essersi infortunato nella semifinale, scrive il Messaggero, deve accontentarsi, tra virgolette, del bronzo. Richiamata in prima pagina anche l'ennesima intervista, perché ne ha data una anche qualche giorno fa, lo ricorderete, l'abbiamo citata, l'ennesima intervista del vice ministro dell'economia Enrico Morando, che un po' torna sulla promessa che è stata fatta anche nei giorni scorsi, sia dal premier Renzi che dal ministro dell'economia Padoan, cioè che le tasse scenderanno ancora. Il Giorno ha anche in questo caso la fotonotizia dedicata ai pallavolisti, e poi però un'analisi che ho trovato molto interessante, che ci spiega un po' il significato di Ventotene, la scelta di Ventotene per questo vertice tra Hollande, Merkel e Renzi. L'analisi è di Sandro Rogari, si intitola "Fallimento di un'utopia", ve ne leggo le prime righe. Pochi ricordano che il grande ispiratore involontario del manifesto di Ventotene, che lo ricordiamo fu poi quello da cui cominciò a prendere forma l'idea di prima di comunità europea e poi quella che adesso chiamiamo Unione Europea, fu Luigi Einaudi. Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, confinati dal regime fascista in questa isoletta ventosa al largo del Golfo di Napoli, gli chiesero infatti di far loro recapitare i suoi scritti del primo dopoguerra. Einaudi, che era stato maestro di Rossi, li accontentò. Così nell'estate del 1941 nacque la prima versione del manifesto, poi integrato e riscritto più volte a quattro mani e infine diffuso da Eugenio Colorni, che ci aggiunge del suo tramite la moglie, la tedesca Ursula Hirschmann, che poteva muoversi liberamente. È passato alla storia come il manifesto fondante del federalismo europeo, ma in realtà intendeva essere molto di più. Soprattutto aspirava ad essere il programma di un nuovo grande partito europeo, rivoluzionario e transnazionale, che cogliesse l'attimo fuggente del dopoguerra segnato dal disfacimento degli stati nazionali, secondo Rossi e Spinelli, per costruire qualcosa di diverso. Il diverso era la federazione europea. E la Gazzetta dello Sport, io anche oggi un po' mi stupisco perché erano, insomma, le Olimpiadi sono finite, le prossime saranno tra quattro anni, forse meritavano più spazio in copertina. In realtà hanno il palchettone, cioè quello spazio sotto la testata, e il titolo è Grazie Italia, un titolo colorato in verde, bianco e rosso, una foto scontornata dei giocatori dell'Ital Volley e un'altra foto scontornata del lottatore Chamizzo, ma diciamo la copertina vera e propria, i due terzi della prima pagina della Gazzetta dello Sport è dedicata all'inizio del campionato di calcio con questo titolo: Bacca spacca, il riferimento è alla tripletta del giocatore del Milan, De Boer stecca, e il riferimento qui invece è all'allenatore, il nuovo allenatore dell'Inter, che ha esordito ieri perdendo 2-0 con il Chievo. Per arrivare, credevo fosse il record quello della settimana scorsa, che per arrivare alla cronaca delle Olimpiadi bisognava sfogliare la Gazzetta fino a pagina 24. Oggi il record è stato abbattuto: per arrivare alla cronaca delle Olimpiadi bisogna arrivare a pagina 28. Il Secolo XIX è l'unico giornale che mette in prima pagina la morte della soprano Dessì. È morta soltanto aveva solo 59 anni. Parlano di malattia fulminante, non è chiaro perché c'è sempre questo tabù nell'usare o la parola cancro o se si tratti di altra malattia, ma io non comprendo perché non si possano nominare le malattie. In ogni caso, appunto, è morta per una malattia che il compagno ha definito fulminante e tremenda, e il Secolo XIX dà questo risalto alla notizia perché questa grandissima soprano, che secondo molti è stata la più grande cantante lirica degli ultimi 20-30 anni, era appunto originaria di Genova. La voce della bellezza che seppe incantare senza divismi. Ma il titolo vero e proprio, come per la stampa, come per il Corriere, come per il Messaggero, è sulla dichiarazione di Renzi, che potremmo dire auspicato, perché poi non è possibile avere una certezza di questo. In ogni caso, appunto, ha detto al voto nel 2018 che vinca il sì o il no. Il Fatto Quotidiano polemicamente prende spunto da queste dichiarazioni di Renzi. Il titolo scelto infatti è Renzi non si dimette più. Fino a ieri diceva: se vince il no lascio e non ci saranno altri governi. Ma la fotonotizia è molto interessante perché poi richiama un'inchiesta che trovate alla pagina 4 e 5 del Fatto, che è sul caporalato. Sapete che è in discussione e verrà... Adesso il Parlamento è chiuso per questa lunga, simpatica vacanza di oltre 40 giorni di tutti i nostri parlamentari, ma quando riaprirà, una delle leggi all'esame sarà quella appunto sul caporalato. Viaggio nei ghetti del sud. Nei campi è la solita estate da schiavi, l'agricoltura si basa ancora su braccianti pagati pochi spicci e lasciati a vivere tra porcili e baracche. La legge approvata al Senato non basta, perché appunto l'iter della legge non è ancora concluso. Libero, Renzi avvelenato dall'euro. Il riferimento è al vertice di oggi a Ventotene, Libero descrive così: il premier incontra la Merkel e Hollande per chiedere altri soldi e tirare avanti. In 14 anni però le abbiamo provate tutte, invano. L'unica richiesta da fare è abbandonare la moneta unica, come sostengono i Nobel. E qui ci sono due riferimenti al fatto che da una parte Libero sta conducendo questa campagna Dateci il referendum, invita tutti gli italiani che sono favorevoli a un referendum per restare o no nell'Unione Europea e nell'euro a mandare la propria posizione, a spedire la propria posizione o via mail o via posta alla redazione di Libero. E l'altro riferimento, come sostengono i Nobel, che forse ricorderete, qualche giorno fa sia Libero che il giornale titolavano sulla tesi dell'ultimo libro del premio Nobel per l'economia Joseph Stiglitz, che ipotizzava non proprio la fine dell'euro, ma la nascita di un doppio euro, un euro per le economie europee del nord più forti e un altro euro per le economie del sud più deboli. E molti però fanno coincidere una scelta di questo genere con il fallimento della moneta unica, che appunto più unica non sarebbe. Il giornale invece titola sulla vicenda di cronaca di Ragusa: una volta è umano, due è diabolico, fermate quel PM. Il PM appunto di Ragusa, che ha deciso la scarcerazione dell'uomo accusato di aver tentato di rapire una bambina. E c'è anche il riferimento al fatto che il ministro della giustizia Andrea Orlando ha chiesto un'ispezione alla procura di Ragusa per vedere se è stato fatto tutto secondo legge. Vi segnalo dalla prima pagina, e spero di avere tempo dopo di leggervene una parte, l'inchiesta di Cristina Bassi da pagina 15 a pagina 17 del giornale. Il titolo è inquietante: un chirurgo su 10 lavora ubriaco in sala operatoria. E si parla appunto degli abusi di sostanze stupefacenti, non soltanto alcol, di molti professionisti, ma appunto forse la categoria che più spaventa, se questi dati corrispondono alla realtà, è quella dei medici che appunto per far fronte magari a turni massacranti o stress, si aiutano con sostanze stupefacenti. Il foglio del lunedì, che come sapete raccoglie il meglio di quello che la redazione e il direttore del foglio del lunedì, Claudio Cerasa, ritengono appunto il meglio di quello che è uscito sulla carta stampata nella settimana precedente, ha come sempre un focus sulla prima pagina che è dedicato alla Siria. E qui c'è un motivo d'orgoglio per me che lavoro al Sole 24 Ore, perché tantissimi degli articoli citati sono apparsi sul nostro giornale a firma di Alberto Negri, Ugo Tramballi, Marco Valsania. C'è un tentativo, lo dice il foglio stesso, una guida per orientarsi nel caos, ma appunto di caos si tratta quando si parla della guerra in Siria, che, lo ricordiamo, è una guerra, possiamo definirla civile, però in realtà, come sappiamo, coinvolge ormai sia gli Stati Uniti che la Russia, cioè le due superpotenze militari, e dura da 5 anni, appunto. Sempre sul foglio, poi tutti questi estratti li trovate, sono talmente tanti perché davvero, ammesso che abbia un senso spiegare il caos o tentare di spiegare il caos, però sono veramente tanti gli spunti, quindi ne trovate una parte sulla copertina e gli altri poi sempre sul foglio, ma alla pagina 5. Passiamo alle pagine interne dei quotidiani prima di fermarci un attimo per una breve pausa. Tantissima la cronaca anche qui. Vi segnalo ancora solo dal Sole 24 Ore un approfondimento di Micaela Cappellini sull'internazionalizzazione delle imprese, in particolare sulle opportunità che offre la Cina, ma non solo Shanghai e Pechino e le altre metropoli, perché poi sappiamo che in Cina esistono queste città gigantesche e ce ne sono tante, oltre naturalmente a Pechino e Shanghai. In particolare Micaela Cappellini si è concentrata su Guizhou, Ningxia e poi il Tibet come regione, perché in queste zone chi investe può poi contare su una crescita a doppia cifra. Pensate, per esempio, che l'anno scorso il PIL della provincia del Guizhou, nel sud della Cina, ha messo a segno un aumento dell'11%, quindi circa 4 punti in più della crescita già incredibile per noi europei, che siamo purtroppo abituati allo 0, o l'1, appunto una crescita già molto alta, che è appunto pari circa al 7%. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e grazie a tutti gli ascoltatori che, nonostante sia molto presto, anche se probabilmente in questi giorni, in questa settimana, molte persone che erano in vacanza rientreranno nelle città o rientreranno comunque al lavoro, grazie a chi ci ha mandato già dei messaggi. Vi ricordo il numero 349 238 6. 6666 e c'è un lettore in particolare, un ascoltatore in particolare che mi dice che non ha senso il mio snobismo sulla Gazzetta e le Olimpiadi. Non è snobismo, è proprio solo la considerazione che forse, visto che sono ogni 4 anni, non dico di non dedicare spazio al calcio, assolutamente, è iniziato il campionato, ma forse si poteva fare una scelta diversa per la copertina. Ma forse ha ragione l'ascoltatore che dice la Gazzetta titola e fa pagine secondo quello che vogliono i lettori, che vogliono il calcio e sono stufi delle Olimpiadi. Ma torniamo alle pagine interne dei giornali, in particolare al Sole 24 Ore, che ha un'altra inchiesta di Rossella Cadeo, che parte da un rapporto della Fondazione Moressa che si è concentrata sulla definizione di soglia di povertà e sul calcolo di chi è sotto e chi è sopra questa soglia. Il risultato di questa ricerca della Fondazione, che ci spiega l'articolo di Rossella Cadeo, è che ogni 10 famiglie definite appunto povere, 4 sono straniere. E la definizione di soglia di povertà rappresenta la spesa minima necessaria per acquisire i beni e i servizi inseriti nel paniere di povertà assoluta. Vi dicevo, la puntata di oggi sulla guida per i professionisti, che il Sole ha chiamato Focus Estate, che riguarda soprattutto la casa e il condominio, trovate a pagina 16 e 17. A proposito di Ventotene, il vertice che si terrà, abbiamo visto oggi sulla porta aerei Garibaldi, e poi ci sarà anche una breve visita sull'isola, lo trovate a pagina 9 con un bel colloquio di Alessandra Muglia con Amartya Sen, un altro premio Nobel, tra l'altro finito nei giorni scorsi sulle cronache dei giornali perché era in Italia con la moglie, che non è stata bene, e sono andati al Policlinico Gemelli a Roma, e lui si è stupito di come funzioni bene la nostra sanità pubblica. E del resto può darsi che ci sia della cattiva stampa che arriva persino all'estero sulla sanità pubblica, e sicuramente ci sono tanti casi di mala sanità e tanta corruzione, però è anche vero che nelle classifiche dell'OMS il nostro sistema sanitario pubblico è comunque sempre ai primi posti, se la gioca sempre con quello del Regno Unito. E comunque il titolo del colloquio con Amartya Sen è "I miei giorni con Spinelli sul lago a parlare di Europa, quanta passione avevano in quegli anni al confino", perché come ricordava l'analisi sul Giorno, appunto, si trattava di intellettuali come Altiero Spinelli che durante la Seconda Guerra Mondiale erano al confino e poi e riflettevano su molti temi internazionali, quali quello appunto di una federazione europea. L'intervista invece a pagina 13 di Dario Di Vico, che è l'inviato a Rimini al meeting di CL, è a Julian Carrón, che guida Comunione e Liberazione dal 2005 e cerca un po' di spiegare che cos'è Comunione e Liberazione CL oggi. Il titolo dell'intervista, un virgolettato, è "CL non ha bisogno di un nemico né vive per le briciole del potere". Così Julian Carrón, che appunto è il successore di Don Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione, "non c'è una centralità della questione islamica". Altra intervista concessa da Roberto Maroni, sempre al Corriere della Sera, Andrea Senesi. Qui il tema è da una parte l'immigrazione, dall'altra la possibile aggregazione del centrodestra con un leader che secondo molti da Berlusconi, è stato scelto da Berlusconi, in Stefano Parisi. E proprio su questo Maroni dice: "per adesso gli do credito. Quanto al segretario della Lega Matteo Salvini, abbiamo alcune opinioni diverse, ma la Lega è sempre stata di lotta e di governo". Vi segnalo dalla Repubblica, visto che abbiamo parlato di Ventotene, che uno dei temi potrebbe essere quello della creazione dell'esercito europeo, che come sapete non c'è così come non c'è una politica comune di difesa, così come non c'è un vero coordinamento tra servizi segreti. Se ne è parlato molto in occasione degli attentati in Francia e poi in Belgio. E però forse questa potrebbe essere una dei temi discussi a Ventotene, anche se in realtà sulla Repubblica se ne parla perché c'è un'intervista di Giampaolo Cadalano a Vincenzo Camporini, che è l'ex capo di Stato Maggiore, e però appunto si dice ottimista sugli esiti di questo summit che ci sarà. Sul Messaggero trovate, per chi fosse curioso su questo, il disegno dell'incrociatore portaerei Garibaldi, dove appunto si incontreranno Hollande, Merkel e il premier Renzi, e spiega proprio i numeri di questa nave, di questa nave italiana, che ha un equipaggio di poco meno di 600 uomini e poi è equipaggiata con un sistema missilistico. Lo trovo insomma molto curioso, fatto bene, tra l'altro fatto molto bene, fa capire appunto che giganti del mare sono queste portaerei. Poi tra l'altro ce ne sono anche naturalmente di molto più grandi, tant'è che questa è un incrociatore portaerei, non una vera portaerei, però pensate che come armamento ha, può portare tra i 12 e i 18 aerei, due elicotteri, 16 aerei, due lanciatori, insomma altre curiosità. L'intervista che vi avevo citato, che il Messaggero mette anche in prima pagina, al vice ministro dell'economia Enrico Morando, che torna sul tema del taglio delle tasse. Secondo Morando è importante definire già oggi le misure che partiranno dal 2018. Tra l'altro e naturalmente si parla del documento di programmazione economica, economico-finanziaria, che dovrà essere presentato al rientro dalle vacanze, sempre per quelle vacanze del Parlamento. E tra l'altro un ascoltatore mi ricorda, non sono soltanto i parlamentari a essere in vacanza, ma anche tutti i dipendenti delle Camere per questo lungo periodo di quasi 40 giorni, anzi forse qualcosa di più di 40 giorni. In ogni caso, proprio portandosi avanti, diciamo così, cercando già fin d'ora di chiarire quali sono le posizioni di Confindustria, l'avete sentito anche nel GR col servizio di Nicoletta Picchio, che era inviata a Rimini, dove ha parlato il presidente Vincenzo Boccia, che ha già insomma spiegato che la posizione di Confindustria è di non fare investimenti a pioggia o quello che in passato veniva chiamato l'assalto alla diligenza, ma di fare scelte selettive nella finanziaria, appunto, e di puntare su produttività e investimenti. Ecco, sempre su questo, un retroscena, quello che potrebbero essere, si stanno facendo tantissime ipotesi su come potrebbe prendere forma questa nuova manovra e sullo spazio che potrebbe avere un taglio dell'IRPEF o di altri tassi o di altre tasse. Quindi a pagina 7 ci racconta il Messaggero: giù IRPEF o i contributi, ecco il bivio del governo. Palazzo Chigi e Ministero del Tesoro lavorano a due soluzioni per la riduzione del prelievo fiscale. Si pensa anche per esempio a una flat tax, cioè una tassa con un'aliquota uguale per tutti e non progressiva, per aiutare la classe media, oppure una sforbiciata agli oneri contributivi. Vedremo appunto quale delle due ipotesi prevarrà. Sulla Stampa un approfondimento per tornare alla questione migranti, vista non per una volta dall'emergenza degli sbarchi, ma in prospettiva. E Antonio Pitoni ci racconta: 2050 in Italia senza migranti saremo 10 milioni di meno. Impietose le proiezioni dell'Eurostat, la popolazione a picco e le culle vuote. Un'altra notizia della Stampa che non ho trovato altrove e che comunque mi sembra una buona notizia: la distruzione di beni artistici diventa un crimine di guerra. Il Tribunale appunto per i crimini di guerra, che come sapete ha sede all'Aia, per la prima volta va alla sbarra un jihadista accusato di aver partecipato alla distruzione di 9 monumenti a Timbuktu in Mali. L'intervista è a Paolo Mathieu, che è professore di archeologia, che dice: ogni sfregio alla cultura è un attentato contro l'umanità. L'Europa deve aiutare il Medio Oriente per superare il colonialismo. E poi altro approfondimento che solo la Stampa ha sulla situazione delle Filippine, una delle tante crisi un po' dimenticate o che non si raccontano molto. Ci sono state elezioni da poco, c'è un nuovo presidente, Rodrigo Duterte, che tra l'altro ha un soprannome abbastanza inquietante, lo chiamano nel suo paese The Punisher, il castigatore potremmo dire. Crimini, omicidi e insulti, le Filippine di Duterte. L'ONU è inutile, andiamo via, così ha dichiarato. E questa storia ce la racconta Carlo Pizzati, che appunto è andato nelle Filippine per cercare di aprirci una finestra su questo paese che forse conosciamo veramente poco, se non tramite i tanti immigrati che sono venuti negli anni nel nostro paese appunto dalle Filippine. Vi dicevo di Daniela Dessì, sul secolo XIX, lo spazio maggiore al ricordo di questa soprano di soli 59 anni. La foto, tra l'altro la foto principale, è proprio scattata al Carlo Felice di Genova, al Teatro d'Opera di Genova, durante una recita di Tosca. dalle pagine interne della Gazzetta. Vi segnalo, sapete che da qualche anno la Gazzetta ha una parte, l'ultima parte del giornale, dedicata all'attualità. Giorgio Dell'Arti firma un articolo dove forse dice la cosa che con questa chiarezza non ho visto nei titoli degli altri giornali. Vi ho detto che Erdogan, subito dopo l'attentato che ha fatto 51 morti, ha dato la colpa all'ISIS, però ha anche detto che ISIS e curdi sono sullo stesso piano. Siccome l'attentato è stato a un matrimonio di un esponente del principale partito curdo, è una dichiarazione effettivamente molto forte, come quelle a cui ci ha abituato Erdogan negli ultimi tempi. E allora il titolo del pezzo della Gazzetta è: strage al matrimonio, ma come fa Erdogan a mettere curdi e ISIS sullo stesso piano? E poi, tra l'altro, è un articolo fatto molto bene. Giorgio Dell'Arti, sapete, è specializzato in questo condensare libri o argomenti in pillole, e quindi ci sono anche proprio 5 domande e risposte: che cosa ha detto Erdogan, chi può essere stato, a parte la propaganda, chi è Gülen, ci ricorda il predicatore che Erdogan considera il suo nemico principale, è autoesiliato negli Stati Uniti, di cui peraltro Erdogan ha chiesto l'estradizione agli Stati Uniti. E poi Giorgio Dell'Arti fa quest'altra domanda: quindi è veramente opera dello Stato Islamico, e in che modo Erdogan potrebbe trarre vantaggio persino da questo massacro? Vi dicevo, l'inchiesta del giornale alle pagine 15 e 16, il titolo di questa inchiesta di Cristina Bassi: quei tossici che hanno in mano la nostra vita. Vi dicevo, dei medici, ma anche per esempio i piloti di aereo e manager al lavoro sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcol. Ecco i pericoli che nessuno racconta. E all'interno ci sono appunto questi dati inquietanti: un medico su 10 è ubriaco in sala operatoria. E tra l'altro ci sono altri dati che fanno capire quanto possa essere grave la situazione, per esempio che fra i medici c'è un tasso di suicidi doppio rispetto al resto della popolazione. E a Torino c'è un centro che cura i tossicodipendenti malati di stress, e nelle categorie più a rischio ci sono appunto i piloti di aereo, gli autisti e i manager di alto o altissimo profilo. Sempre sul tema di CL, sul meeting di Rimini, sul meeting annuale che è in corso a Rimini, su Libero un'intervista di Pietro Senaldi a Giorgio Vittadini, esponente di CL e fondatore della fondazione Meeting per la Solidarietà. Una lunga intervista intitolata "Colpa nostra se le chiese sono sempre più vuote", e poi un riferimento, perché l'intervistatore gli chiede degli scandali che hanno colpito anche esponenti di CL, Formigoni in primis, Roberto Formigoni, ex governatore della Lombardia, e Vittadini risponde: Formigoni, comunque meglio di Berlusconi e Renzi, è stato il maggior fattore di sviluppo politico degli ultimi anni. Gli errori sono alle spalle e ci hanno fortificato. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Per l'ultima parte della rassegna stampa, vi dicevo, l'intervista su Libero a Giorgio Vittadini, esponente di CL, l'intervistatore gli chiede quanto si sente francescano, e lui risponde: totalmente. San Francesco era un inno all'uomo, alla bellezza, basta pensare al cantico delle creature, alla visione positiva della vita, al gusto della libertà personale nel rapporto con Cristo. Il movimento CL è molto francescano. L'intervistatore gli dice: ma io mi riferivo a Bergoglio. Con Ratzinger avevate un grande feeling anche a livello di dottrina. Wojtyla era il papa dei movimenti, Francesco invece, puntini puntini. Ma Vittadini risponde: ma Bergoglio è molto in sintonia con Ratzinger, entrambi mettono al centro il rapporto con Cristo e lo antepongono alla dottrina. Sono diversi solo i modi di comunicare, ma l'insegnamento principale di tutti e due è: sii umano, cercare Dio è bello e cambia tutto. In questo sono molto vicini a quello che diceva Don Giussani, ma l'intervistatore ancora lo incalza e dice: i cattolici tradizionalisti sono disorientati da Bergoglio, è considerato di sinistra e spaventano le sue aperture all'Islam. E Vittadini risponde: studino, si informino. Perché dovremmo rinunciare a parlare con 1,5 miliardi di islamici? Il dialogo nasce dall'esperienza di condivisione della vita, non dalla teologia. E come questo meeting sta dicendo più volte, per essere noi stessi abbiamo bisogno di questo dialogo. Un'altra intervista, anche qui divertente, piena di spunti, è quella a un avvocato, un grandissimo avvocato Franco Coppi, che è stato anche l'avvocato, per esempio, che salvò Giulio Andreotti, così scrive nell'occhiello libero dalla sentenza di Cassazione, e il titolo scelto per l'intervista è «Le mie superstizioni sono un cornetto e la penna rossa». E poi, un po' diciamo in stile così Andreotti, con una battuta così molto acuta, dice «Essere superstiziosi è da ignoranti, non esserlo porta iella». E la sua battaglia in questo momento è scarcerare Sabrina Misseri, che sapete è accusata di aver ucciso la cugina. Ma la curiosità, così, che a me ha più colpito è che uno dei tanti aneddoti che si raccontano su Franco Coppi è che una volta è stato fermato dalla polizia stradale perché viaggiava con una gazza ladra in mano, in macchina, e quindi il Cristina Rodi gli chiede: ma ci racconta di quella volta? E lui dice: io viaggiavo davanti col cane, i due gatti e lei, la mia gazza ladra, mia moglie e gli altri umani marciavano invece su una macchina dietro. A un tratto Paletta mi ferma la finanza, non la polizia stradale. Gli agenti non credono ai loro occhi. Presento loro il mio zoo, col cane che abbaia, la gazza ladra che li guarda diffidente e punta i distintivi incollati alle giubbe. Perché le gazze ladre, come sapete, si chiamano così proprio perché sono attratte da tutto ciò che luccica, e noi umani interpretiamo questo come la loro voglia di essere, di essere ladre, di fare questi furti di oggetti scintillanti. E pare che appunto Coppi ricorda di aver detto alla gente della finanza: non c'è niente di illegale e non sto facendo commercio clandestino di animali. E poi naturalmente, a parte questo aneddoto molto personale, si torna su tutti i suoi le persone che ha difeso, tra le quali c'è anche appunto Giulio Andreotti. Vi dicevo dell'inchiesta del Fatto sul caporalato, sullo sfruttamento in particolare in agricoltura dei lavoratori di clandestini o comunque di lavoratori non in regola. L'estate eterna dei nostri schiavi, il caporalato è un fenomeno presente soprattutto in Basilicata, Calabria e Puglia. I braccianti spremuti per pochi euro all'ora e lasciati vivere in baracche, stalle e porcili. L'agricoltura si basa ancora sull'oppressione. Sempre dal Fatto Quotidiano, invece, una notizia positiva, di questo si sono occupati molto anche qui a Radio 24 in Si può fare, Alessio Maurizi e altre persone, sulla possibilità di rendere l'Italia un po' più ciclabile. Perché sapete che anche in città come Milano, che è una città completamente piatta, quindi diciamo in teoria molto adatta, a differenza di Roma o di Genova, a essere percorsa in bicicletta, le piste ciclabili sono ancora molto poche. E allora appunto arrivano i soldi, scrive il Fatto, siamo i primi produttori europei di due ruote, ma non le ma siamo anche quelli che le usano di meno nelle città. Ora però forse si può cambiare, perché sono stati stanziati 91 milioni di euro per costruire nuove piste ciclabili un po' in tutta Italia. Ancora notizie un po' meno magari legate alla cronaca, ma che ho trovato all'interno dei giornali. Forse ricorderete, settimana scorsa abbiamo parlato dell'aggiornamento sul turismo, sulla stagione turistica in Italia, che già adesso, anche se poi non è affatto finita, già adesso ha un bilancio molto positivo. Il Corriere racconta, con i primi dati dei flussi verso l'Italia, che per esempio sono arrivati quest'anno molti turisti da altri continenti, per esempio i sauditi. La classifica degli arrivi di turisti da altri continenti stabilisce un record, più 68% dall'Arabia, soprattutto nel nord. Ci sono meno cinesi, ma sono in aumento gli indiani. C'è una mappa che spiega appunto questi cambiamenti. A proposito di turismo e di turismo per i turisti con disabilità, che è un tema molto importante, e non si tratta solo dei turisti con disabilità, ma anche dei turisti anziani, che quindi hanno, e sappiamo che la popolazione europea sta invecchiando molto velocemente, come ha anche confermato i dati di Eurostat a cui abbiamo accennato prima. E allora, sempre sul Corriere, dalle pagine di Milano, ma in realtà credo che quasi in tutta Italia chi compra il Corriere trova queste pagine speciali di Milano, c'è la spiegazione di questo progetto dell'assessore a turismo, sport e tempo libero del comune. Braille e video su sugli smartphone 15 chiese multimediali accolgono i turisti con disabilità. È un piccolo passo, però se tutte le strutture, se tutte le attrazioni turistiche, chiese comprese naturalmente, fossero attrezzate, per esempio per chi è cieco o per chi ha altre disabilità, sarebbe appunto un passo avanti di civiltà, ma anche visto in ottica di attrazione dei turisti, poiché ci sono tanti disabili e poiché la popolazione sta invecchiando, bisognerebbe attrezzarsi per accogliere tutti al meglio. A proposito di estate, Danilo Mainardi, il grande etologo, ci racconta sul Corriere l'estate delle tartarughe. Sorpresa, oltre 60 nidi sulle spiagge, quindi non si sa neanche bene perché, ma questa appunto è un'estate in cui questi animali, che spesso sono anche stati colpiti o da pratiche dell'uomo o magari da condizioni meteorologiche non favorevoli, invece quest'estate appunto ne sono nate tante. Le ultime sono due gemelline, in particolare ci racconta il Danilo Mainardi, spiegandoci che i nidi sono in particolare in Calabria, Sicilia, Sardegna, Campania e Puglia, ma ce ne sono anche in Lazio e Toscana. A proposito di Europa e di come siamo messi nelle classifiche, Repubblica cita uno studio di Confartigianato che ha calcolato le tariffe di vari servizi pubblici in 32 paesi europei e il loro andamento tra il 2011 e il 2016. L'Italia è quello dove ci sono stati i maggiori rincari e il livello di soddisfazione dei cittadini è il più basso, e Roma in particolare è la peggiore capitale del continente, quindi una statistica che decisamente rispecchia quello che sta succedendo, che leggiamo nella cronaca di tutti i giorni, cioè che Roma appunto abbia una situazione disastrata sia per quanto riguarda in particolare le due municipalizzate, l'AMA, che è quella che si occupa di rifiuti, e l'ATAC, che è quella che si occupa di trasporto pubblico. Poi sempre da Repubblica una bella storia, ce la racconta Jenner Meletti, su come una delle tante sfide dell'agricoltura italiana sia quella sul riso, e ora per frenare l'import di riso dall'Oriente, anche in Italia ci saranno dei produttori di riso basmati, che è quel riso aromatico con il chicco lungo e stretto. Per frenare l'import, le coltivazioni nella pianura padana cambiano varietà. A ottobre ci sarà il primo raccolto e verrà appunto battezzato non Italian Basmati, ma Aroma. È il frutto di un lavoro lungo 10 anni. A proposito di, dicevamo, crollo delle nascite, però sempre da Milano, quindi dalle pagine interne dedicate alla cronaca di Milano, questa volta da Repubblica. Sì, certo, è un dato che si riferisce solo a una città, però sappiamo anche Milano è la seconda città d'Italia, potrebbe essere un segnale positivo. Questo segnale positivo è il baby boom estivo. Tra giugno e luglio 150 neonati in più. Alla Mangiagalli un agosto record. La Mangiagalli è la principale clinica dove appunto con il più grande reparto di ostetricia e ginecologia, record con 500 parti. Tra le cause c'è l'aumento dei cesarei programmati e i lunghi ponti del 2015. Un approfondimento molto interessante sul Messaggero, dedicato alla fuga, quella che viene definita la fuga dei giovani italiani, noi i soldati di Israele, sempre più i ragazzi ebrei italiani che decidono di prestare il servizio militare per Tel Aviv. Molti vivono nei kibbutz e vengono arruolati per un periodo che varia da 1 a 3 anni. Sapete che in Israele il servizio militare è obbligatorio per tutti, uomini e donne. Il Messaggero ha anche un bellissimo supplemento di 16 pagine sulle Olimpiadi, intitolato Arrivederci a Tokyo 2020, dove si terranno appunto i prossimi giochi, e in questo supplemento vengono ricapitolate, con tra l'altro alcune foto bellissime, tutte le prestazioni degli azzurri, quelle magari da medaglia, ma non soltanto. Sempre dalle pagine interne dei giornali vi segnalo l'iniziativa del giornale che ripubblica articoli di 20-30 anni fa di prestigiose firme del giornale, e spesso se uno non guarda la data alla fine dell'articolo sembrano scritti oggi, e invece appunto sono scritti, come in questo caso, nel 1981. Questo è un articolo di Gregon von Rezzoli che si dedica alla mancia, a quella pratica che è diversa, a modalità diversa, a seconda seconda del paese. Il titolo La mancia va dosata come una medicina, se ne date troppa può diventare veleno, ed è anche appunto un invito a cercare di capire sempre quali sono le usanze di ciascun paese. Il caso forse che conosciamo tutti è che per esempio negli Stati Uniti è normale dare una mancia del 10, 15, a volte anche 20%, e se non lo si fa spesso si viene, a me è capitato, inseguiti dal cameriere che chiede spiegazioni supponendo che il cliente non sia stato soddisfatto del servizio. Questo è perché è il salario dei camerieri in America è spesso è molto legato alle mance, il salario base è molto più basso di quello per esempio che c'è in Italia. Era però l'ultima segnalazione che ho tempo di farvi. Se volete scrivermi, mi trovate su Facebook o anche su Twitter, Giulia_Crivelli. Un ringraziamento a Peter Bescapè in regia. Vi ricordo che dopo il GR c'è Ma cos'è quest'estate, si parlerà di Ventotene, ma anche della, come abbiamo detto, di sharing economy e della polemica scatenata in Egitto dai rilievi sul peso delle giornaliste, che dovrebbero essere invece un pochino più snelle. Ancora una buona giornata da Giulia Crivelli.